di queste opere qua ci fossero delle persone che andassero a controllarle bene, accuratamente, queste cose non sarebbero successe. Purtroppo è visto in Sicilia, ha passato una piccola pigirellina e ha spazzato via una superstrada. Ma come si fa, dai? E questo, il casino è solo questo. Guarda, io non so se tu hai avuto occasione di vedere Antonio Albanese, che ha fatto quelle puntate in cui faceva il mafioso, i topi si chiamava, e c'era lo zio, che era lo stesso mafioso come lui, a cui ha detto, sì, va bene zio, ma anche voi, il ponte è crollato, caspita, che figuraccia abbiamo fatto. E lo zio l'ha risposto, ma tu lo sai che il cemento inquina, e noi quindi non l'abbiamo usato, ci abbiamo messo solo la sabbia. Capito la risposta che l'ha data? Oh, io sempre le solite storie, siamo incasinati, non c'è quella serietà, no. Allora, io non è che voglio per carità fare pubblicità, perché tanto non sono di quella corrente politica, però io mi ricordo che il ponte Rosello l'ha costruito Mussolini, e quel ponte, stai tranquillo, non cadrà neanche per altri 1000, 2000, 3000 anni, secondo me. Che l'abbia fatta o meno Mussolini non ha importanza, perché ci sono anche, che ne so, c'è anche San Pietro, c'è anche tante chiese che sono del 700 e sono ancora in piedi, cioè del 700, anche dell'anno 1000 ce n'è in piedi, c'è il ponte romano che a Porto Torres che sta ancora in piedi, per dire. Però c'è una piccola differenza, che a parte che all'epoca dei romani sul ponte crollava probabilmente qualcuno finiva anche con la testa mozzata, ma in tempi successivi, quello tipo ponte di Rosello, prima del 900 e così via, chi era ingegnere? Era ingegnere. Non è che quella era gente che per arrivare a quel punto se sbagliava all'indomani prendeva la pistola e si sparava. Cioè c'era l'onore, ma non l'onore quello che dicono, quello che intendono certi mafiosi o certa gente, c'era l'onore del fare il lavoro con orgoglio e di farlo bene. E di questa gente ce n'è stata tanto è vero che ci ha portato a essere tra i migliori costruttori del mondo, eccetera, eccetera. Adesso siamo diventati probabilmente peggiori, però cioè, abbiamo insegnato agli altri, agli americani, agli australiani, eccetera, a fare le cose, addirittura ci hanno chiamato loro. Però quella era gente che aveva l'onore, la passione per il lavoro, capito? Questi sono quattro scalzacani che veramente, guarda, è una cosa micidiale. Poi c'è anche da dire che se anche il progetto è fatto bene e ti dicono guarda la specifica così e colà, molte dite poi prendono in mano il progetto e dicono no, quanto ci vuole? 10 tonnellate di cemento, no, esagerato, metticene 5. Come hai detto tu, poi nessuno va a vedere se sono 10 o se sono 5. E quindi nascono tutte queste cose. Ma poi basta guardare la camionale, se tu la guardi bene è fatta a tappe, cioè chi passa dice ma che senso ha fare una strada un pezzo sì, un pezzo no, un pezzo sì, un pezzo no? È una vergogna, ma a parte che qua c'è l'interpretazione che quando inizi una strada quella strada la devi fare per tutta la vita praticamente, cioè quel lavoro da lì non ti muovi e quindi la fai per tutta la vita, cioè la 131 che non è mai finita in realtà, sono sempre lavori. Se tu adesso vai senza andare tanto lontano qua alle gallerie, ne sta provando l'altro pezzo e quindi l'hanno chiusa, siamo a galleria singole. Ma quanto ci vuole per fare un lavoro del genere di risanamento? Sai, ci vuole un mese, dai, esagerando. Questi adesso ci stanno 2-3 anni. Il ponte, quello che c'è vicino alla città mercato, cioè, ma quello è un ponte, quello è un sottopasso. Ci dovrebbero volere proprio dandole tempo una settimana a fare le cose bene. E guarda quanto ci sono stati. Ci sono burocrazie incredibili, chissà chi è che domina queste opere, perché non sono neanche probabilmente politici, ma sono queste imprese che chiedono una... Non sto uscendo. Sì, si blocca il microfono ogni tanto. C'è qualcosa che non va, vabbè. Eppure, vabbè, forse la batteria. E questo microfono c'è una batteria piccolina piccolina che lo alimenta, ma non so. E quindi sto dicendo, queste persone che creano queste opere non hanno, non sono controllate. Io perché mi sono rivolto a quel personaggio di cui non sono di quella corrente politica, comunque lo dico. Quel ponte lì è stato fatto con un criterio talmente potente che proprio è fatto per non caderne mai, per non cadere mai più per tutta la vita. Ma perché? Perché c'era l'intenzione di chi lo ha fatto che quello doveva essere eterno. Le cose che invece fanno oggi, non c'è un controllo che dice tu stai sbagliando facendo così, non c'è un controllo. Quindi avviene tutto a mano, uno lo fa, poi il fatto, lo sta a posto. Poi dopo 3 anni si crolla, perché crolla? Non deve crollare. Prendi i provvedimenti prima e costruiscilo con un criterio sano, forte, che deve durare. Cioè le precauzioni bisogna prenderle, queste che non si prendono adesso, questo è il problema. Purtroppo invece c'è la mentalità che trovi quel lavoro e quel lavoro lo devi fare il più lentamente possibile perché ci devi campare. Non è che dici no, domani me ne danno un altro e rinizio subito l'altro, no. È fatto in quei modi, poi i risultati si vedono perché sicuramente utilizzano anche materiale scadente, è impossibile che una strada appena fatta si formino i buchi, si formino tutti questi cedimenti senza neanche essere finita, cioè sono cose assurde, tutto lì. No, ti parlo in frasca invece, dato che tu sicuramente lo vedi più spesso. Quel cane che c'è, quel cane bianco che è sempre a zonzo lì, non è il tuo ovviamente, no, credo che sia il tuo, quello grosso dico, quello bianco. No, ascolta, io cane non ne ho mai avuto, mi rammarica dirti questo, ma io i cani li odio, mi dispiace. Dire così, mi porta a Natalino adesso, qua si incanta come una bestia. No, non ne ho mai avuto. Mi auguro che non entrino dentro casa da me, perché se entrano, purtroppo mi dispiace, ma lo dico in radio molto apertamente e non me ne frega un cavolo, che se fa il biglietto di entrata, di uscita, purtroppo, da verticale va in orizzontale. No, a parte che quello lì è successo con un cane che è entrato alla fine della strada dove ci sono presenti le cassette postali, che c'è un paio di volanti lì che poi si è saputo che era successo. Proprio un cane che è entrato e insomma, perché da noi comunque che sono abbastanza lontano da lì, questo cane scendeva e insomma ce n'ha anche buttato un pezzo di muro, perché il muro lo sai comunque sì, è delicato oramai perché l'acqua si è portato via tutto il collante eccetera eccetera, muriti a secco. Questo cane arriva alla stazza, si è appoggiato, c'ero io davanti e insomma ha combinato quello che ha combinato. E quindi io dico, cavolo, arriva anche lo scolabus lì con i bambini, con tutto quello che si sente, un cane di quella mole, se gira la testa per qualsiasi motivo, t'aggredisce un piccolino, un bambino che lo fa nuovo, che tra l'altro un fatto del genere è già successo ma nell'altra traversa. Quindi, ma che razza di proprietari c'ha questo animale, no? Capito? No, ma qua ne passano da me questi cani randagi, ce ne sono che passano, guardano il cancello, annusano, però non entrano, perché se lo vedo entrare, magari salta, il cancello non lo può saltare, la rete non lo so, se salta la rete, adesso, però io ho degli strumenti che poi mare, magari entra nelle campagne dove appostiamo qualche cosa. Perché non lo lasci a casa tua, legato? I cani, in detto cesarese, sono fidiati. Non ti puoi fidare, perché sai quante volte sono successe, ad esempio in Sicilia, non era un gruppo di cani, era il cane suo proprio, ha sbranato la padrona, e questa cosa non sarebbe dovuto succedere, perché il cane è sempre un animale, e devi stare attento a come si comporta. Ma perché io devo avere un cane che so che poi un giorno o l'altro, in cui siano spinti, se un giorno o l'altro mi aggrediscono e mi metto, ma perché devo mettermi in queste condizioni? E allora che bisogna sanno dove sono? Via, non ne voglio, via, allontanati. Tanto più che questa persona che tu sicuramente magari conosci, perché se non sbaglio faccio un momento locale, è un po' più su andando verso le cassette e quelle rosse della posta, andando un po' più su, una volta si dimentica il cancello aperto e le scappa, e un'altra volta te lo trovi in giro di notte, insomma so che è già stata diffidata dai baracelli, perché c'ha varie notifiche, però la prossima volta la notifica non gliela fanno i baracelli, perché gliela fanno i carabinieri, non tanto perché sta già violando un paio di leggi, sia leggi comunali e sia legge del codice civile. Quindi i cani in strada che sono di proprietario non se ne devono vedere. Poi ci sono quelli lì, sì, che ogni tanto qualcuno dà da mangiare, ma quelli lì sono innocui, sono proprio, a parte che sono di taglia piccolissima, le fai boom e scappano. Quello invece è un cane che inizia a rientrare in quella famosa categoria dei cani pericolosi, perché quanto peserà? Una cinquantina, 60 kg, anche di più, che bello grosso. Io alludo sempre a quello bianco, che è sfidiato, come hai detto tu. Ma voglio dire, bianco, ma sai qualche maglia, perché io li vedo passare, qualcuno lo vedo passare, e deve essere di così d'uno che abita più su di me, più avanti, probabilmente, perché qualche volta lo vedo passare con lui, avviene presto, poi lui gli dice di andare via e lui se ne va, probabilmente è quello lì, ma da me non si entra, perché se entra da me poi fa l'entrata, l'uscita porta inferi, ma non voglio arrivare a questo, per carità. Il discorso è che fanno danno, perché quando è, poi no, aspetta, poi c'è un discorso, questi animali quando passano davanti ai cancelli, gli altri cani che ci sono vicini abbaiano come disperati, perché vedono quello che è libero, e quindi quelli abbaiano, non hanno come si torna, è un disastro. Ma perché tengono questi cani? E non ce li mandano nel canile e li lasciano lì? Ma perché fanno queste cose? La notte non si dorme, io ho una casa che assigua quasi alla strada, sono 15 metri. Quando appaiono questi cani che passano lì, è un disastro, è un concerto. Ma devi vedere il baccano che fanno. E purtroppo io sto commendo, se si può dire, questa situazione. Sì, ti capisco, perché la stessa situazione c'è anche qua, ovviamente. Perché la notte ci sono tanti cani che abbaiano sopra, probabilmente sugli stessi che senti anche tu, perché lo sappiamo, io figurati da qua sento, quando c'è un pochettino di vento, anche le ambulanze che passano sulla 131, quindi figurati un cane che a 600-700 metri in piena notte, se non lo senti, a voglia che si sente. E purtroppo c'è gente che non ne frega niente, e non sono tra l'altro quei due o tre randagetti che ci sono, che sono tranquilli, che scappano, che stanno sempre intanati, sono proprio cani che lasciati lì a pascolare perché evidentemente il padrone non li vuole, o perché lui lo sa il motivo per cui fa questa azione. Però se poi succede qualcosa di serio, ti ripeto, qua fermano lo scolabus, quindi se, infatti anche l'autista aveva detto qualcosa, ma come è possibile? succede che il suo cane sia in giro, così grande, se trova qualche bambino, se trova qualche cosa, come che è responsabile è il proprietario, come se fosse lui che fa quell'azione. Quindi, a volte la gente non c'ha coscienza neanche di tenere gli animali. Per ritornare anche al discorso di prima, manca proprio la coscienza delle proprie azioni a tante persone. Sì, manca questo criterio qua. Allora, questi animali, io ho un vicino qua che ne aveva, e è riuscito ad averne anche 25, 23, 24, 25. Questi qua, questi animali, quando abbaiano la notte, a parte il discorso del baccato, ma io la notte apro la finestra per essere un po' d'aria fresca, non posso accendere il condizionatore, mi consuma, ma perché io devo accendere? Allora, qua è naturale, il condizionatore è naturale, apro la finestra, non puoi, devi chiudere tutto, bloccare il gioco, perché fanno un baccano del diavolo. Che ne è un licenziatario, non padrone, che cosa gli animali non li tengono dentro casa loro, perché non lasciano il maraglio fuori? Questo ma pericoloso, quando mai non deve intervenire il preposto a fare questo? Le levano e li portano via e poi secondo me non hanno le microchip, non è. Sì, ogni tanto si blocca il microfono, Vito. Sì, l'ho notato, ma è perché devo parlare molto vicino. A meno che non ho messo un po' qua. Vedo un po'. E la batteria ovviamente è esaurita, se no devo cambiare apparato. Adesso è andato tranquillo. Probabilmente qualche contatto, magari si ossidano, eccetera. C'è ragione, secondo me il problema inizia anche a essere un problema di baraccelli, perché se dovesse capitare qualcosa, e dicono come mai, uno può dire, signori cari, guardate che qua sono arrivati i baraccelli, controllate se hanno fatto delle sanzioni, se hanno fatto dei verbali, perché anche loro potrebbero passare di dei riguardi, perché se ci sono omissioni e poi succede il fatto da tre, quando è reato ci passano di mezzo anche loro. Quindi magari la prossima volta che succede un qualcosa del genere, a posto di chiamare il baraccelli, chiamano direttamente i carabinieri. E così voglio vedere se trovano scuse che il cane è uscito, che era un momento, che era un qualcosa. Perché poi capitano i guai, prevenire è sempre meglio che curare, perlomeno così hanno ci hanno insegnato. Ma se ci sono le persone, diciamo così, preposte ai controlli, quando i carabinieri fanno una segnalazione, cosa fanno? Prelevano l'animale, lo controllano, i microchip, si arriva al proprietario e il proprietario verrà multato, verrà in qualche modo punito, perché non è possibile. Tu non puoi lasciare tutta la notte in giro così, vagante. È pericolosissimo, io perché ho paura? Io proprio ho paura dei cani, ma stiamo scherzando. Guai, se io vedo un cagnetto di un pedolino gli dai un calcio e va via. Ma quando stiamo parlando, che tu mi accennavi poc'anzi, di cani che hanno 50-60 kg, quello non è più un cane, quello è una bestia, un bulldozer. Se ti do un morso quello una gamba, finisce a portare soccorso e poi ricevi tutto il visto. Ma perché dobbiamo arrivare a questo? Ma infatti è sempre la stessa cosa. Perché dobbiamo arrivare a questo? È come quella ragazza che hanno ucciso quanti ieri, uccisa da quell'altro fuori di testa, che doveva essere in prigione, invece era fuori. Almeno metti il coso lì, il braccialetto GPS, per capire se questo la sta seguendo o meno. E invece l'ha uccisa e poi si è ucciso lui. Si poteva uccidere lui e lasciare in pace la ragazza, che faceva meglio. Vabbè, anche lì. Per carità, senti tutti i colori, se noi andiamo avanti in questo modo, guarda, che a diventare non fatti ma dire tu dove abiti qua, allora perquisizione, se c'è armi eccetera, perquisizione, via. Poi se ne procurerà un'altra, ma intanto nel momento si succube, non lo fanno, se ne fregano, anche i carabinieri hanno le mani legate, quindi non possono fare nulla, capisci? Appunto, quello che ti stavo dicendo, ma dimmi, in quel caso lì, qualcuno non dovrebbe andare dal GIP e dirle, caro signore, ma insomma c'erano tutti questi indizi, tutte queste cose, e lei cosa ha fatto? Non si è occupato di niente? Ma chi l'ha messo qua? Lo sa che adesso anche lei è responsabile della morte di una povera ragazza? Perché stringendo, poi i fatti quelli sono, Se tu non adotti le misure precauzionali, così come succede in questo caso di questa ragazza, così come succede nella manutenzione di ponti, così come succede quando non fa la manutenzione degli impianti del gas, eccetera, e causa un'esplosione. E queste sono tutti reali, sono tutte cose colpose per omissione. E quindi sono anche quelle cose che la persona è responsabile. Insomma, siamo veramente alla totale irresponsabilità, vogliamoci tutti bene, stringiamoci tutti la mano, poi chi è morto, pazienza, e chi è vivo magari è segnato per tutta la vita, pazienza lo stesso, ma una società civile non dovrebbe funzionare così, ecco. Certo. Non dovrebbe funzionare così, no, ma è chiaro. Però noi ci troviamo di fronte sempre a queste situazioni che per risolverle non è semplice, e questo è il problema. Risolverle chi? Anche questi, le forze dell'ordine, sono anche loro con le mani legate e non possono intervenire a fare determinati interventi, quelli che sono ad esempio le punizioni, perché loro possono soltanto segnalare. Ecco, il carabinieri cosa fa? Tu hai un cane che ti ha rotto, è entrato in casa e ti ha spacciato, fai il danno. Oh, è questa segnalazione. Ma questa segnalazione non serve a nulla. Ma quanti animali entrano dentro i poderi degli altri e fanno danni, e anche pecore che entrano in certe campagne, che mangiano tutta l'uva o che ne so, nelle vigne. Ebbene, solo fa la segnalazione, arrivano a carabinieri, fanno due e non succede nulla, perché quello è nulla facente. Questo c'è questa breccia qua, cosa gli fa? C'è questo monismo, come lo chiamo io, che non serve a niente. Se tu non punisci, non risolvi mai niente. Questo è. Infatti, io la chiamo la politica del volemosi bene, che è quella in cui vabbè, ma poverino, ha avuto un'infanzia infelice, poi ha ammazzato 5 persone, sono cose che capitano. No. No, le leggi, guarda, le leggi ci sono in realtà, e che noi siamo pieni di leggi, cioè abbiamo le leggi anche per l'erba, ma l'esperienza ci insegna che più leggi ci sono e meno si applicano. Capito? Quindi c'è anche questo problema, è per quello che si dovrebbe riformare una volta per tutte questo momento, poi sia civile sia penale, perché le cose devono essere chiare. Negli altri stati, per quanto anche loro poi che ne abbiano, tipo gli Stati Uniti, se devono mettere una multa te la fanno, cioè no, anche il cittadino lo sa benissimo che se sbagli paghi e finisci anche davanti al giudice, se non stai attento. Perché di lì sono proprio tutti questi interventi, sono schedulati perché sono registrati, sono codificati come azione. Da noi invece, vabbè, è un poveraccio, è un disgraziato, cosa devo fare, eccetera. E oggi fa quello, e domani magari ne combina un'altra, e dopo domani un'altra ancora. È chiaro che poi tante situazioni del genere, no? Purtroppo è così, e manca anche da parte dei giudici, che magari se la prendono con un poveraccio non ha fatto niente, quello che magari ha fatto un omicidio si ritrova fuori, anche con sua inaspettata meraviglia, tra l'altro. Comunque, è così. Le cose purtroppo c'era un presidente di Alberto Sordino, quello del vigile, quando è andato a testimoniare in tribunale, la mamma ha detto al figlio che stava dicendo, ma papà sta dicendo tutto il contrario, e lei le ha detto, figlio mio, capito che da piccolo a queste ingiustizie perché poi da grande non sa più chi. E questo dice tutto, no? Anch'io è difficile che mi trattenga a quest'ora perché poi devo fare tante cose. Comunque è stato un piacere, giusto? Perché di norma qua non c'è nessuno, c'è anche da altre bande, ma anche lì non c'è tanta gente purtroppo. Ti saluto, buona serata e alle prossime. Ciao ciao. Ciao anche a Natalino, se mi ascolto. Buona serata anche a lui, anche agli altri che abbiamo chiamato ma non hanno risposto. Buona serata a tutti. Eia, ciao Gianfra, buongiorno, state chiudendo. Sì, sì, stiamo chiudendo, ciao, buona serata anche a te, ciao. Chi era l'amico, scusa per curiosità, non ho capito, stavo ascoltando per un paio di minuti, però non ho capito chi era l'amico. È Vittorio, che è un mio vicino, tra l'altro, che è entrato, eravamo a Natalino, è entrato, credo ci siamo fatti una chiacchierata. Ah sì sì sì, non l'avevo riconosciuto Vittorio. Va bene dai, ok, io sono appena acceso un minuto, ho sentito l'ultimo pezzo della conversazione quando poi vi siete salutati e basta. Adesso rimango qua un attimo su 10, se entra qualcuno, se no va bene. Ok, c'è anche Natalino comunque. C'era, ma poi a un certo orario, lo sai, lui sta lontano per fare quella cosa. E quindi ci ha dovuto lasciare tutto lì. Niente, siamo fatti così una chiacchierata con Vittorio, adesso anche io lo sai, no? Insomma a questo orario anche io mollo. Io vabbè, ti lascio andare, io tengo qua acceso, faccio ogni tanto una chiavata se qualcuno vuole entrare, se no pazienza, faccio anche io altro, dai. Ok, siamo là, non ci sentiamo anche con te, io rimango in ascolto, ma così come tardi metto sempre lo squarcio alto perché sono gli altri apparati in funzione, si sa che c'è sempre un po' di rumore qua, no? L'altro giorno sono entrato un attimino, c'era Antonio, Luca ho sentito di sfuggita, poi qualche volta ho sentito a Claudio, quell'altro di Alghero Mirko, capitato, che ha migliorato un pochettino, visto che l'antenna arriva anche per gli altri che non riuscivano a sentire, doveva sistemare ancora, sollevarla. Volevo sentire Claudio se ha fatto qualche lavoro, che doveva sistemare l'altra antenna, sollevarla, tu l'hai sentito? No, negativo, probabilmente c'è molto da fare, come tutti noi che siamo diventati campagnoli. E sappiamo bene cosa significa la campagna e poi comunque c'è anche chi lavora, c'è anche molto stress perché deve correre là, correre su, correre giù. Uff, sta diventando una rottura veramente micidiale, perché uno pensa che a una certa età metteva i piedi sotto il tavolo e basta, invece più diventi grande più devi correre, mi pare, no? Quello è normale, non è che più devi correre, che corre troppo il resto, tu non riesci più a seguirlo perché le gambe sono sempre quelle, però la velocità delle gambe col tempo diminuisce, per cui se prima ne facevi 10 quando eri più giovane, adesso con le stesse gambe ne fai 7-8 e poi sempre a scendere, quello è il problema. Appunto, se potessero cambiare le gambe già sarebbe un vantaggio, ma quelle stanno là per quelle tieni. Oramai sono state consumate abbondantemente, purtroppo è così. Va bene, Roberto, sì, perché mi stavo indicando anche il tuo nome, già andiamo bene. Roberto, ci sentiamo alle prossime allora, buon proseguimento, dai. Buon tutto anche a te, dai, buon proseguo. Adesso rimango qua, intanto faccio chiamata, tanto sono qua in sala radio, ce n'è roba da fare, qua c'è sempre da divertirsi, dai. Ciao Gianfra, sempre piacere ascoltarti, alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao, alle prossime. Attenzione 10, se c'è qualcuno che vuole entrare avanti. Hola. Hola, attenzione 10. Hola, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10, c'è qualcuno? Che è avanti? Se sei tu Mirko ti sento basso, basso, basso. Non lo so, avanti, sei tu, non lo so, non riesco a capire quello che parla qualcuno. Guarda se puoi fare qualcosa, sei Santiago 7, però radio 0, niente. Non capisco quello che dici, purtroppo non posso aiutarti. Oh, cioè, tu sei qua. Mi credo che sia. Allora. Prese combinate. Finta adesso di innaffiare, adesso stavo entrando a spegnere la radio perché la accendo tutti i giorni, anche se non parlo, era a volume basso. No, io sono entrato da brutto, un'oretta, ho riposato un pochettino, poi acceso, c'era un secondino Gianfranco, ma stava chiudendo, poi adesso c'è qualcuno sotto che sta chiamando, ma non credo che sia Mirko perché sta arrivando troppo basso, parla, però non so chi sia, non ho capito. No, non è Mirko, se no Mirko arriva a Santiago quasi 9. E infatti anche qua arriva sul 995, però questo è Santiago 7, buco. Ha cercato di dire qualcosa, ma non so chi sia. Non so, vediamo un po', se vuole entrare qualcuno avanti. E beh, a proposito, ma anche l'hai fatto qualcosa? No, vabbè, assolutamente, una scelta così, che non c'ho molto tempo, poi dovrebbe andare bene così, tanto non penso che vada ancora. E 4 metri, sono due tubi. L'hai vista, rimane un 2 metri più bassa della mantola, forse 1,5 metri, però la punta è quasi uguale alla mantola. No, già andava bene, adesso stai usando quella, la nuova. No, sto andando con la mantola. Sto andando con la mantola. E che cavo ha usato qua per alimentare l'antenna? Sempre la camicia c'ho io, non ne ho cavi per le tacchiamo. Adesso comunque, guarda il segnale com'è con questa. Guarda che segnale ti arrivo con questa. Ha cambiato antenna? No, no, questa è la mantola, che segnale ti arrivo? 9 più 3. Questa è commutata, questa è l'altra, quanto ti arrivo? 9,35, un peluzzino meno di 9,35. Aumenta quindi, hai visto? E certo che aumenta. Ma anche ricezione aumenta, l'hai notato? Sì, da 35 passi a 40 pieno tu. Io, va bene allora. Poi quando c'è il tempo mi dà la mano, quando è il bel tempo nel senso fresco, mettiamo sull'altra antenna, quella direttiva là, e poi vediamo di fare qualche lavoretto, per metterci il rotore e vediamo un po'. Ehi, un problema, vediamo, è troppo caldo, sta facendo anche lì, ha fatto un caldo, che è allucinante, poi ho dovuto modificare quella porta, vabbè, perché era troppo alta, l'ho dovuta tagliare sotto, modificare i piantoni, finalmente sono riuscito a piazzarla. Ah, la piazzata, sono contento, dai. Ehi, piazzata, sì, piazzata, montata, adesso ci vuole l'altra, che però è un bel larga. Questa non mi interessa, ma è larghezza è un bel larga, è un metro. Un metro? E beh, non li puoi fare le montanti più larghe? C'è da fare un lavoretto particolare, conviene più farle una striscia di forattino, una parte all'altra, perché sennò è un casino, capito? Ci vogliono dei tirafondi, ci vuole un casino, conviene più mettersi una mattina a fare due strisce di forattini, da una parte all'altra, c'è da asciugare e poi montare il taglio la porta. E poi fare così, vabbè. Ma altre voi di porta? Sì, è un'altra da un metro larga, sì. No, da un metro non è, però possiamo vedere, chiediamo un pochettino. Tu la vuoi per forza in legno? No, se è alluminio è meglio, se è esterno lì. No, alluminio non ne ho, almeno non credo di averne, devo vedere, ma non credo perché avevo una e l'ho usata. Ma senti, generale Muranco, lampada nel senso dati ad amici, c'avevo un bel portoncino, ecco, che era due ante, una stretta e una un po' più larga, quello ti andava benissimo sicuramente, bello, tutto in legno massello. Sì, c'è in alluminio, in ferro, qualcosa del genere, intanto hai visto dove vanno, l'avevo fatto vedere. Se non è legno è meglio, quella è legno l'ho messa dall'altra parte, che mi è riparato, ma dove chiama, però non lo sento, parla però non lo capisco, chissà dove. Va bene, riprendi tu. E beh, cosa hai combinato in questi giorni? Beh, sempre facendo, sai, qua c'è sempre da fare. No, la radio non mi interessa, mi ho sentito a te, adesso sono andato a salutarti, ma non mi interessa più, cioè non ho voglia, c'ho altre cose da fare. No, vabbè, quello è normale, poi c'è il caldo, c'è dove c'è la radio. No, c'è un fresco, ma prende sole, qua c'è il caldo, ma è ancora di no, qua invece, vabbè, adesso oggi in questi giorni non c'è ne di caldo, a parte c'è uno di quei rinfrescatori, ma gli altri giorni a luglio, cata, aveva un caldo, no, che dentro, doveva mettere quel rinfrescatore, se no si moriva. No, qua c'è fresco in tutta la casa, roba, non ho patito il caldo per nessun motivo e... Va bene alla grande, l'ho cominciato con la mandorla, e questa ancora non è taratta, devo ancora fare alcune cosette, l'altra. E niente, tutto procede bene, dai, non mi posso lamentare, perché ho detto radio, non avevo letto, saluto la torre, saluto l'operatore, non la giubilana, vabbè, non mi interessa più tanto. Non mi interessa, così anche a salutare di tanto, non sono più assiduo come prima, capito? E vabbè, diciamo, adesso è sempre una passione, un divertimento, mai come ti travaglio a dormire con la radio attaccata, no? Uno accende quando ne ha voglia, come faccio io? Accendo quando la giugana, se mi va bene la chiacchierata di farla o se mi va bene un discorso entro, se no lasciamo perdere, già ne ho roba da fare. Anche io, burudruppa di cose, adesso mi domani arriva il motore della parabola, quello grosso, si può riparare quella 4 ore, però non la giugana, la metto nuovo direttamente. Chiaro che c'era le partite, non mi sono potuto vedere la partita perché ho spostato la parabola, che non me ne sono accorto. Volevo fare delle prove a girare tutto quanto, siccome l'avevo tenuta tutto l'inverno ferma, con la più piccola, che doveva andare a girare ed era bloccato il motore, ha fatto un pezzettino e poi si è bloccato. Ma poi finisci la guarda, ho fatto l'abbonamento a persona, non ho visto niente, fortunatamente gli hanno tolto i diritti, è passato nuovamente tutto a scarichi, tutto a pezzi, tutto si bloccava, tutto faceva. Fortunatamente li hanno tolto, adesso è passato nuovamente tutta Sky. L'ho provato oggi e si vede, da Dio si vede. Vabbè, ti ha fatto la mano da Zon? Se le partite ce le aveva da Zon, aveva tutto da Zon, cosa devo fare? Quindi, adesso fortunatamente hanno passato tutto a Sky, perché la gente si è lamentata, capito? No, vabbè, non è ancora passato niente, stanno cercando di tutti i modi di farlo passare a Sky, perché Sky è l'offio, non te la guardare così, sicuramente il servizio di Sky era molto ma molto migliore, perché via satellite non ha interruzione, il problema è anche di servizio di linea, perché quelli che l'hanno guardata col cellulare l'hanno tutti visto bene, quelli che c'avevano il TV hanno avuto dei problemi, soprattutto al primo tempo della partita Inter, con chi era? Beh, non me la metto nemmeno, Inter Genoa mi sembra, hanno avuto problemi, quello del Milan ha avuto coso. Io ho girato la parabola perché sennò me l'avrei guardata, e l'abbonamento è quello che ho io di quel network albanese che c'ha tutte le partite eccetera eccetera, anche quello lì ha cambiato gestore, deve fare un altro abbonamento, però me lo porta un amico mio da un'altra nazione che costa una fesseria, costa 40 euro all'anno tutte le partite. Buono. No, io non ho visto proprio niente, si bloccava, girava la rotellina, poi riprendeva, poi rigirava, e no, ramara, infatti guarda, ero proposto a fare la distretta immediata, e invece poi ho letto che adesso i diritti passano nuovamente a Sky, spero che questa settimana ce la facciano, in modo che per la prossima partita almeno vedo, capito? La prossima partita c'è coso, magari Milan, e poi tra 3 settimane, perché c'è la pausa per la nazionale, c'è Napoli-Juve, o Juve-Napoli, ma non me lo metto. Vabbè, però... Se per il calcio si parla, nazionale o non, insomma, se devi vedere qualcosa, cazzo devi vedere, non è che devi vederla a metà o non devi vedere niente, perché io non ho visto proprio niente, capito? Ma tu la c'hai del coso all'esterno? No, io ho 2 smart TV, anzi 3, 2 grandi, una piccola, tutto smart TV, me lo sono già organizzato, vedo tutto, poi siamo del 2019, quindi... quindi sono recentissimi. No, perché stanno dando un decoder che costa tra l'altro 113 euro, ne manco poco, e ti fa vedere sul digitale terrestre il canale 402, quando succedono questi problemi ti fa vedere la partita in questo canale di servizio quando ci sono problemi di connessione, però puoi vedere solo una partita a scelta, cioè la giri la scegli tu, non ti puoi vedere le altre partite, vedi, se ci sono quattro partite contemporanee a tutte ne puoi scegliere solo una. Costa 113 euro questo specie di decoder per permetterti di vedere l'acqua digitale terrestre, ma devono risolvere per forza perché sennò li ritirano i diritti. No, ma Sky non c'entra niente, la Lega è che li ritira e fa un nuovo appalto, un nuovo, una nuova asta. Vabbè, facciano quello che vogliono, beh, però cioè, si può fare per vedere, dicono niente, nulla, niente, niente, niente. Capito, tutto qua. Vabbè, comunque aspettiamo. No, no, no, io non devo mettere nessun decoder, no, c'ho i TV, i smart TV e funziona perfettamente. Adesso aspettiamo quando passano, quando passa tutto in, in coso, come si chiama. Cos'è il, praticamente tutto in HD, vedi? Sì, le partite addirittura anche in 4K, però siccome sono troppo compressi, già l'HD è di bassa qualità, perché se quando c'è troppo carico di utenti il server non riesce a, a sopperire, per cui devono diminuire, diminuire la, la compressione del segnale, cioè scusa, devono diminuire, aumentarla, per cui non è neanche HD, è un segnale quasi come televisione normale, come standard TV. Un po' quanto hai pagato tu di abbonamento? Io 29,90. 29,90, come pagavo la carbonati, la stessa ho fatto solo la voltura. Ma tu perché eri già la donna? No, no, io ero Sky prima. E paghi 29,90 tutto l'anno, cioè al mese. E allora quando? Perché c'era all'inizio con 19,90 se lo facevi entro, entro luglio e te lo davano 19,90 per 12 mesi o 14 mesi, adesso non ricordo. No, ma io c'ho anche i film, c'ho sport e film, i documentari, c'ho tutto completo io. Sono da un bello con Sky, sì, un bel po' di anni. Ah vabbè, il film non è so capito, e poi ormai su, su coso, su internet trovi tutto, c'è mia figlia, c'ha Netflix, quella lì si guarda tutto, c'è un'amica sua, dopo distribuirlo mi sembra due o tre persone, pagano mi pare 5 euro al mese e ti puoi vedere proprio quel film, anche quelli nuovi che non sono ancora usciti. E anche la lì, anche mia figlia ce l'ha Netflix, infatti con noi si guarda qualcosa al telefonino, c'è un bel telefonino grande, ce lo guarda anche lì abbonato lo stesso. Però io vabbè, ma è completo, io l'avevo già fatto tanti anni fa nell'altra casa e quindi quando sono qui avevo fatto la, la vendetta e poi praticamente adesso ci ho fatto la voltura, diciamola. Sì, sì, no, ma quest'anno, penso più dell'anno scorso e degli anni passati, il campionato è molto equilibrato perché ci sono belle squadre, c'è la Juve che non è più l'unica che potrebbe vincerlo, c'è l'Inter, poi bisogna stare attenti a Milan, a Roma, a Napoli, per cui è molto molto equilibrato, per cui magari qualcuno può perdere nei fronti diretti, però le partite non è più come 3-4 anni fa che la Juve vinceva con tutti, erano risultati scontati, adesso se gioca con l'Atalanta devi stare attenta, se gioca con l'Umila devi stare attenta, è molto più, più equilibrato ed è anche meglio così, anche quelle squadre cosiddette materasso danno mattana. E non è più squadra materasso, non hai visto l'Udinese, parliamo 2-0, ha pareggiato 2-2, capito? No, non c'è più squadra materasso, ho visto un bel Verona, ho visto un bel Empoli, vabbè l'Inter anche quest'anno, che sia la dominatrice un po' la prima, la favorita, il Milan. Un attimo, un attimo. Non ce n'è squadra del materasso, l'Atalanta, la Lazio, che la Lazio, hai visto l'esordio di Sarri, vabbè, ce n'è di squadre, ce l'ha a vedere belle partite, ce l'ha a seguire bene, bene il calcio, soprattutto nella sportività, perché non è che uno deve guardare solo la sua squadra, io le guardo tutti, a me non me la fotti nulla. Ok, adesso mi sembra c'è Antonio, allora canto. Buonasera, ho dato un colpo, gatto. Buonasera a tutti, buonasera. Sì, Cianto, ho sentito il fischio quando hai fischiato un attimino. Allora, Cianto, buonasera, io non ho sentito niente. E tu stavi parlando, ho sentito sotto un fischio basso, perché tu eri più forte, però un attimino si è sentito il fischio. E beh, tu hai finito di lavorare? Ma che lavorare? Ah, giusto, mi hai detto che lavori solo la mattina, tu stai lavorando, sei in ferie. No, io tutta questa settimana sono in ferie sino a sabato, domenica, allora, poi lunedì si riprende. Ma di nuovo qua. C'è qualcuno che chiama? C'è che chiama? Avanti? Chi sei? Avanti? Se non aumenti la voce, arrivi Santiago a 3, ma se non aumenti la voce non ti sento. Ok, no, vabbè, dai, io vi lascio perché mi faccio una doccia e poi vado a cenare. Vi saluto, grazie per le due chiacchiere, ciao Giantonio. Saluto anche a tutti gli altri, meglio voglio roba da sono stanco molto, vado a farmi una bella doccia e poi mi siedo a cena, ciao ciao. E anche io rimango un pochettino, dai, faccio compagnia, ci sono tanto, neanche io vado a mangiare. Ok, buon tutto, Claudio, ci sentiamo, ciao ciao, vai Anto. Scappa, salutone Claudio, ci sentiamo alle prossimine. C'è qualcuno sotto, come ha detto Claudio, Santiago sì, ma non si può prendere nulla perché il correme talmente forte ce l'ho io, non riesco a capire. Avanti, chi chiama? Perché non riesco a capire quello che dici. Che strano, se mi ascolti io ti sento basso, proprio quasi impercettibile, sento che parli però non capisco quello che dici. Se sei tu Mirko, rispetto all'altro giorno sei sceso tantissimo, eri 9, adesso sei 6, il segnale in momenti arrivavi 7, però non ti ascolto, non riesco a capire quello che dici. Vai Anto. Capa, a me mi muove appena lago, non capisco chi è, ma proprio impercepibile. Proprio zero. Non vorrei cambiare radio, potrei sentirlo con l'altra, che forse riesce a tirarlo fuori, quella è una radio migliore. Comunque va bene così, dai, purtroppo non è che dobbiamo fare miracoli, è inutile che mai riesca a capire qualche parola, poi non c'è un questo normale, tu non lo ascolti, per cui in questo caso dovrà essere lui a mettersi in condizione di parlare e farsi sentire meglio. Ok, quindi stai lavorando solo la mattina tu. Gappa gappa, la mazza che te ne pare come se andava a farmi male il braccio, gà. E fa cosa? Cosa ci ho fatto il vaccino? Bravo, sì. Oggi sono andato a mangiare fuori da un ristorante, non si fa il nome, e lui, anche lui è assolutamente contrario ai vaccini per il fatto di tante storie. Mi c'è il coso, il pizzaiolo oggi me la sa da piedi, che un uomo grande, lui ce l'ha dubbiato, mi ha detto un uomo grande gli ha fatto il vaccino, dice tutto a dolori e non viene, infatti ha detto non te lo fai un vaccino. Vabbè, la bugia si passa, non mi fa male un po' il braccio indolizzito e basta, dopo ti passa e va bene. Guarda, avanti ieri ero alla gentera, ma appunto al coso, alla medusa, ha detto me, chi ti ha per i vaccinati, me, che dite, e mi è venuto in mente il discorso del vaccino, ci sono quelli che ti fanno allergia, mi ha fatto il ginocchio, tu veramente mi ha fatto il ginocchio, bello maturo, sembrava cacchio, tutte le venute si vedevano, ed era una medusa piccolina, tu fai conto se ti bugnerà che animale grosso, qualcuno un po' più grande o a faccia. No, ma il problema non è appunto, non la senti nemmeno tu. Quella cosa lì tu non la senti nemmeno. Il problema è dopo che ti indolizzisce il braccio, capito? Guarda, a casa nostra non ha fatto effetto a nessuno, compreso mio padre, faccio 9 corna, che lui ha fatto i primi, c'ha 88 anni, ha fatto le due dosi, non l'ha fatto nulla, noi eravamo preoccupati, io ero contrario, però mia sorella e mio fratello hanno voluto farlo a fare, contenti eri, gli ho detto prendetevi le responsabilità, non voglio sentire niente, sperando che non succeda mai niente, mentre la mia cognata gli ha fatto male, lei è assolutamente favorevole ai vaccini, insegnante, gli ha fatto male, è stata mal di testa forte, dolore, ma 3 giorni le è durato, ma un bel male. Non è a tutti che prende, no, a me solo questo indolizzimento del braccio e basta, di altro non c'ho nulla, tutto a posto, mi hanno fatto il Moderna, mi hanno fatto a me. Quando è così dipende se la tachipirina dille, che li basta tutto. Vabbè. Sì, ma tu hai fatto anche la seconda dose? Capa. E la prima non ti ha fatto nulla? No, è sempre quel tipo di indolizzimento e basta, non mi ha fatto nulla, no. E di altri problemi, nel senso un po' di mal di testa, nausea, nessun problema di niente hai notato, il mangiare, il bagno, qualche problema di continenza, nulla? Nulla, solo quel, ti ripeto, solo come adesso, indolizzimento e basta. Ma io mi devo una birra casera. Vabbè, non c'entra niente. Il bacio te lo fa tipo pesante. Un po' di indolizzimento, ma nulla di che. tipo quando ti pigli un colpo e ti sbatti un livido. Una cosa del genere. Però quando te la fanno tu non senti niente. Cioè la punturina non l'hai sentita neanche un po'. Ma manco per idea. Che braccio sinistro ho detto? Eh? Il sinistro. Tutti e due, tutte le due dosi allo stesso braccio. Scappa, glielo ho detto io. E quindi fatti prima la parte e poi l'altra, così equilibravi i dolori. Non saranno. Lo senti già nei travagli domani. Ah, addirittura non riesci a fare forza. No, forza te riesco a fare, però non mi dà fastidio. Capito? Mi dà solo fastidio e basta. Non ho forza già la posso io. Mi sa, dà solo fastidio e boh. Vabbè dai, contenti voi, cosa vuoi che ti dica? Contenti voi, io dico che ognuno è libero di fare quello che vuole. Vediamo un attimino di bianco se entra qualcuno, attenzione al canale 10, se qualcuno vuole entrare, aspetta due secondi e se no altro riprendi tu. Ma io vabbè, l'ho dovuto fare anche perché lui mi ha detto, fallo perché cazzo non si sa mai che è qua. Vabbè, ma poi me non mi ha fatto un cazzo, guarda, me l'ho fatto e va bene così. Tanto, visto che ne è lunga. Se non si muore di lampi si muore di drone. Quindi no, solo questo piccolo indolenzimento, poi non ho nulla io. Dipende, mi robe, a volte alcuni li prendono la maniera, alcuni li prendono la maniera, alcuni non li fanno nulla nemmeno. È come che dice Brunen di Eva. Sì, moltissime, però conosco tanta gente che ha avuto degli effetti lievi, diciamo, un paio di giorni è guarito, quello d'officina è venuto, è stato due giorni a casa, non subito, gli è venuto il codice, stava male, a vomiti, eccetera, eccetera. La fidanzata lo stesso l'ha preso mal di testa, fortissimo. Ad altri la maggior parte non fa niente, ma purtroppo è come tutti i vaccini, è come tutte le medicine, magari c'è qualcuno che è un po' allergico all'inizio, però c'è da dire che qualcuno ha avuto degli effetti molto gravi, poi sono rischi e pericolo loro, chi lo vuol fare lo faccia, io non lo critico assolutamente. Come ti chiedi tu ti impegni una medicina sbagliata, te la prendi, non sai che effetti ti dà e ti c'è bideccio, è la stessa cosa. Sì, ma deve essere una cosa volontaria, non assolutamente obbligatorio, adesso stanno cercando di farlo obbligatorio, ma stai scherzando, io se non me lo voglio fare devo essere libero di non farlo, non costringere, green pass e marasofì, non puoi viaggiare, non puoi fare niente, mi faccio il tampone è più efficace del vaccino, perché tu ti dimostra che il tampone sei negativo, col vaccino non dimostri niente, perché c'è gente col vaccino e il risultato contagioso positivo, che non significa niente, tra parentesi, perché se sei contagioso non significa che tu sei contagi la morte. Purtroppo la gente non ha capito, magari che vai la peste bubunica, cacchio. No, ma è bello che te lo biglino, ma te, se sai cos'è l'unico vantaggio? Dicono che non finisce all'ospedale e basta, ti biglia da chi finisce e ti basta. Solo quello c'è di vantaggio. O del resto, boh. Ehi, a pensa la cucina, tanto lascia aperto. Quante ne muore di niente, muoiono sempre di vaccini, la gente è normale che qualcuno muoia sempre, ma non puoi dire che te lo prendi di meno o di più, non esiste. Questa cosa non è giustificabile perché non si può stabilire. Come fai tu a stabilire se c'è il vaccino te lo prendi 10, se senza il vaccino ne hai 5, in base a cosa lo stabilisci? Non esiste nessuna prova scientifica, non è come dire ti metti il motore con l'olio e non grippi, e senza olio grippi, non è così, stiamo parlando di cose diverse. È una cosa sperimentale che magari qualche persona gli dà dei benefici, ad altri non gliene dà, oppure è zero, è inutile o ti può fare del male, non esiste prova contraria, per cui io dico se tu esistono le medicine per curarti, per me io sono contrario solo per quello, siccome non è una cosa mortale, tutti quelli sono morti erano persone anziane o avevano problemi di patologia, a parte qualche caso raro di qualcuno che magari non aveva niente, ma sarebbe morto per altri motivi probabilmente, come quel giocatore della Danimarca, sanissimo, eppure gli è venuto quel problema di cosa, di infarto in campo, a chiunque può succedere, anche al migliore atleta e chiunque, non c'entra niente nel Covid e nel vaccino. Purtroppo la gente se comincia a farsi il vaccino se lo fa. Io dico sempre, finché esiste la malattia ci sono le cure e ci sono le cure. Se uno c'ha problemi si cura. Il vaccino è una cosa, un optional. Una cosa è certa, che se mi metto una terza dose mi sa che non ne posso più. È finita. No, la terza dose forse già ci sarà una quarta, una quinta, eccetera, eccetera. E per esempio io l'ho detto, mi pare ad aprile, no, forse ad aprile no, a maggio l'ho già detto, c'è un amico di Genova, quello che, con cui ero oggi, e lui c'ha già la prenotazione al 31 di ottobre, lui ha fatto le due dosi, deve fare la terza dose, e ci sarà una quarta, una quinta, ogni 9, 8 o 10 mesi dovrai farti un richiamo, perché questo vaccino, ci sono le vaccino di questo virus, ci sono, come tutti i virus ci sono le varianti, il vaccino non è una cosa, a parte non è un vaccino, è una terapia immunologica, è tutto un giro strano, vabbè, la siamo billi, non te ne ha fatti nulla, per cui abituati a come ogni anno l'influenza, ti dovrai fare, chi se lo vuol fare, il vaccino per l'influenza, oppure uno dice non me ne voto, se mi piglio l'influenza può essere bella, brava o leggera, dipende da come me la prendo, e ti curi, questo è il discorso. Purtroppo stanno facendo un sacco di bombardamento alla televisione, alla radio, mai una volta che senti il confronto con chi dice che è contrario ai vaccini, tutti sono tutti d'accordo per i vaccini, non c'è un programma dove mettono a confronto tipo la politica, quello di destra con quello di sinistra, qua c'è solo una sola verità e non fanno vedere l'altra eventuale verità, non dico siano verità tutti e due, un dubbio ti può far venire, purtroppo ci sono troppi interessi di Dina e questo è il guaio. Tu aspetta cosa ne esce ad autunno, vedrai che siamo di nuovo tutti chiusi in casa, la colpa sarà dei non vaccinati, faranno in modo di dare le colpe ai non vaccinati, non alla cagata che hanno fatto loro. Quello vedi, quello non è giusto, perché io che sono andato a vaccinarmi, io la gialla non la voglio, non la voglio, perché quello non è giusto, è mancanza di rispetto, quello è esagerare e rompi le balle, scusando dalla frase, perché allora lì non bisogna rispettare niente, no, io l'ho fatto il sacrificio, sono andato, me l'ho fatto e tu mi stai rompendo le scatole, no, non ci siamo. Allora io ti dico solo una cosa, io sarei stato il primo, anche non dico il primo, diciamo, ci avrei pensato diversamente, se tu mi dici questo pseudo vaccino, che non è un vaccino, il vaccino è un'altra cosa, io tutto lo fai e sei libero di fare tutto quello che facevi prima nel 2019, prima del 2020, puoi entrare in qualunque pozzo, sei protetto, se ti passa un contagiato non ti succede niente, io sarei stato uno dei primi a fare, siccome non c'è nessuna certezza che questo coso funzioni e lo stiamo dimostrando, tutta la gente che si sta contagiando, basta vedere alle Olimpiadi i calciatori, gli atleti, 492 atleti tutti vaccinati e super controllati con tutti i tamponi ogni giorno, 492 ci hanno preso il Covid ed erano in ambienti separati da tutte le cose esterne, eppure se ne abbia il adesso non significa niente, perché se tu hai il Covid non è detto che devi morire, assolutamente no, perché la mortalità è talmente bassa, però se ti danno, ti tolgono la libertà, la gente non ha capito che ti stanno togliendo una libertà, la togliere la libertà non è di farti il vaccino o non fatta, perché tu dici sì e faccio il vaccino, a quel punto io sono libero, non è così, tu la mascherina ce l'hai ancora, se entri dentro i locali chiusi devi avere ancora la mascherina, eccetera eccetera, che cacchio di serve il vaccino se non ti dà la libertà, stiamo scherzando, tu sei uguale a me che non me ne ho fatto, un pochettino di più perché tu ti puoi sedere a tavolino all'interno, io invece me l'ho mangiata fuori la pizza o la roba in ristorante, adesso poi d'inverno vediamo come andrà a finire, mentre in piedi posso entrare, ma ti rendi conto, prima era il contrario, cacchio non potevi entrare con la mascherina in piedi, ma ne è invertito la legge, ma è una legge di pagliacci, la gente purtroppo non si rende conto della libertà, stanno togliendo la libertà alle persone, poi il vaccino ognuno è libero di farlo, io sono assolutamente d'accordo a quello, però tu non mi puoi togliere la libertà, ti svegli la mattina e sono aumentati i casi, in base a che cosa? Beh, aumentano i casi, e quanti sono quelli che stanno morendo? Controlla le persone che muoiono, controlla quanta gente muore di coso, di tumore ai polmoni per il coso, in Italia lo sai quanti ne muoiono ogni anno? Per il fumo, 300.000 persone all'anno, ecco, stanno facendo una battaglia con questo Covid, chiudendo locali, attività, eccetera, eccetera, e hanno distrutto l'economia, per non parlare di altre cose, e mi devo fare un vaccino che non mi permette di essere libero. Appunto per quello, anche quello, se questo fa male, se le sigarette fanno male, come dicono, perché non le tolgono? Ah no, perché deve guadagnare lo Stato, mi dimentico.